Cantieri di Carità e Giustizia. Segue il nostro viaggio all'interno dei Cantieri di Carità e Giustizia con il quaderno numero 1 alle radici della carità a Padova. Sapete che nei giorni scorsi è già partita la distribuzione in occasione della Via Crucis cittadina anche del quaderno numero 2. Oggi incontriamo le figlie di Maria Ausiliatrice FMA, nate nel 1872, ispirate al carisma di Don Bosco e di madre Mazzarello. Buoni cristiani onesti cittadini è la sintesi del programma educativo di Don Bosco. Formare buoni cittadini i discoli e i vagabondi, come si diceva allora, i piccoli malfattori e i ladroncelli. Ma allora sentiamo qual è la storia della presenza dell'attività a Padova delle figlie di Maria Ausiliatrice con Suor Maria Teresa. Ecco, noi siamo a Padova dal 1911. Precisamente abbiamo iniziato l'opera il 28 settembre 1911 con un pensionato femminile vicino all'ospedale, dove attualmente ci sono alcune strutture appunto a servizio dell'ospedale, in via San Massimo. Via San Massimo numero 14, la prima casa in affitto che ci è stata data da Don Gioacchino Stefani, vicario di San Massimo. Dal 1911, dove iniziarono appunto con una ventina di giovani il pensionato femminile, ci fu un susseguirsi di nuove opere con vari ampliamenti, al punto che nel 1930-31 l'istituto prese la decisione di abbattere i diversi fabbricati che man mano si erano acquistati lì intorno e di costruire un nuovo braccio di casa. E poi al pensionato, che si trasformò nel 33 in collegio, si aggiunsero l'oratorio festivo, già dall'inizio quasi nel 19, l'asilo dell'infanzia, la scuola elementare nel 20, la scuola magistrale nel 31, la scuola media nel 35 e l'istituto magistrale nel 36. Mi riferisco un po' a queste date e si sottolinea come lo sviluppo delle opere e la scarsità di ambienti, con le condizioni precarie anche di stabilità di parte del fabbricato, la collocazione, perché un'area sempre più chiusa tra ospedali civili e cliniche universitarie, ha portato negli anni 60 a dover fare la richiesta di cambiare sede, di costruire in altra sede l'istituto. E dopo le varie trattative si è arrivati al 29 settembre 1966 con la conclusione della costruzione dell'edificio e il passaggio al nuovo Don Bosco in via San Camillo, che allora in quei primi anni qui eravamo lì si chiamava via Scardeone. Oltre all'istituto Don Bosco voi avete anche l'istituto Maria Ausiliatrice. Sì, l'istituto Maria Ausiliatrice è nato nel 1941. Le cronache dicono che la fondazione di questa casa trae motivo dallo sviluppo consolante dell'istituto femminile San Giovanni Bosco, che allora era ancora in via San Massimo. Si era cercato un altro locale sia per la sede ispettoriale, cioè della provincia, sia per accogliere pensionanti universitarie, perché questo era stato la proposta iniziale, ma di fatto poi all'istituto Don Bosco di via San Massimo non si sono potute più accogliere perché si è aggiunta una serie di altre iniziative per ragazze più che per pensionanti universitarie. Il 23 aprile 42 la casa ha accolto anche un corso per alunne marconiste, poi man mano la guerra ha segnato chiaramente, per cui durante la guerra si sono fatte più attività di carattere sociale, la mensa per le persone in difficoltà e poi per bambine povere dei dintorni. E finita l'emergenza della guerra, dal 48 si è potuto iniziare la scuola di avviamento professionale, è terminato il pensionato universitario e è iniziato l'orfanatrofio sovvenzionato dalle Nauli nel 52. Nel 58 si è inaugurato il nuovo edificio scolastico in via Orsini, siamo sempre noi perché c'è il parco che divide, ma che congiunge le due strade. Nel 59-60 sono iniziati i corsi professionali, erano presenti anche all'Istituto Don Bosco, per un periodo sono stati da una parte che dall'altra, fino poi quando negli anni 90 si sono poi unificati presso l'Istituto Maria Ausiliatrice. Nel frattempo sono stati aperti l'oratorio, sempre qui l'Istituto Maria Ausiliatrice, l'oratorio, la scuola elementare per alcuni anni, la scuola materna, la scuola media, la scuola magistrale che è stata trasferita dall'Istituto Don Bosco, che poi ha avuto variazioni, quinquennio egeria inizialmente, e poi liceo con più anche opzioni. Così il centro di formazione professionale si è ampliato e si è diversificato. Ecco, importante anche una ventina d'anni fa, a metà degli anni 90, la nascita dell'associazione Vides. Di cosa esatto. Si tratta? L'associazione Vides è un'associazione che ha un riconoscimento a livello comunale e regionale, ma che è una espressione di una organizzazione, di un'associazione a livello internazionale, una ONLUS riconosciuta appunto a livello internazionale, che è stata costituita dal nostro istituto, l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per fare particolarmente attenzione alle donne e alla formazione, all'educazione, coinvolgendo i giovani nel volontariato. Attualmente qui in Padova e nel Veneto, dove siamo presenti come associazione, sia a Valdagno in provincia di Vicenza come a Conegliano, dove ci sono delle sedi, ci occupiamo in particolare dell'immigrazione e soprattutto della scuola di italiano e attività di integrazione con gli immigrati, soprattutto donne e ragazzi, ma non solo chiaramente, e sono tanti. Se si vuol venire a vedere giovedì sera e sabato mattina, si trovano centinaia alla volta di giovani e non giovani che vengono per la scuola di italiano gratuita, con molti volontari, con centinaia ormai di volontari che si alternano. Cantieri di Carità e Giustizia.